Chris Christie è uno dei più grossi sostenitori di Mitt Romney, il governatore del New Jersey, idolo dei repubblicani conservatori. Ebbene, ha detto: "President was great last night. He said he would get it done. At 2 a.m. I got a call from FEMA." Non posso che lodare l'azione decisa del presidente. Lo merita. La sua performance, ha detto Christie, è stata eccezionale. Coordinarsi con l'amministrazione è stato meraviglioso. Queste dichiarazioni ci hanno riferito fonti vicine ai repubblicani. Beh, hanno gettato lo scompiglio nella campagna di Romney. Ma come, a pochi giorni dall'elezione, un loro sostenitore va a elogiare in modo così diretto Barack Obama? Tanto più che l'ha fatto sulla Fox, che è una delle reti più conservatrici del paese. Come vedete, questa campagna elettorale con i due candidati di punta agli sgoccioli si combatte ormai su ogni fronte, anche su quello dell'uragano Sandy.